Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:11 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dell'età della pensione, perché come già vi hanno ricordato anche i nostri GR24, sono usciti i dati Istat che servono poi per calcolare, diciamo, a che età si potrà andare in pensione, e di questo ci sono state poi, tra l'altro, anche prese di posizione dei sindacati, penso poco fa la CGIL. Comunque, a 65 anni l'aspettativa di vita arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di 5 mesi rispetto a quella registrata nel 2013. Quindi, sulla base della regola attuale, l'età per la pensione di vecchiaia, di quello stiamo parlando chiaramente, dovrebbe arrivare a 67 anni nel 2019. Di questo, dicevo, parleremo anche del Monte dei Paschi, che domani risbarca in borsa con un prezzo a 4,28 euro per azione, sia quelle che detiene direttamente sia quelle in portafoglio ai clienti, a fronte degli 8,65 euro di sottoscrizione degli obbligazionisti subordinati e dei 6,50 euro pagati dal Tesoro. Il valore di borsa potrebbe anche discostarsi significativamente da quanto pagato da un lato i possessori di obbligazioni strutturate subordinate e il Ministero dell'Economia e Finanze, quindi il Tesoro. Questo viene detto esplicitamente nel documento messo a disposizione dalla banca. Anche di questo parleremo, così come vedo già messaggi sulle pensioni. Abbiate un attimo di pazienza sull'età della pensione. Come sempre, poi anche la borsa, che in questo momento è più che positiva a Milano, devo dire meglio Milano di tutte le altre borse europee oggi. Perché? Perché grazie a Saipem, che sta facendo il botto vero e proprio, più 10,46%, ma anche Finecobank più 6,06%, e ancora Saipem si muove chiaramente sulla trimestrale e il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno, riduce la perdita a 57 milioni, i ricavi però fanno meno 12,8%. Dicevo, Luxottica anch'essa ieri in trimestrale a 2 miliardi e 140 milioni fatturato, e tra l'altro più 0,8 a cambi costanti, meno 3,5 tenendo conto che si è rafforzato l'euro, e conferma le previsioni per l'anno. Molto bene anche Luxottica, più 5%, Finecobank più 6% in questo momento, Fiat Chrysler più 4,70%. Anche qui pesano, in senso positivo, i conti sul trimestre, risultati record, più 50% l'utile netto a 910 milioni, adjusted è in rialzo comunque del 25%, e la Fiat ha confermato l'obiettivo di un utile oltre i 3 miliardi, utile netto oltre i 3 miliardi per il 2017. E dicevo, questo per quello che riguarda i titoli che bene si muovono. Di nuovo Italgas forte come ieri, più 4,20, UBI più 2,90, Case New Holland Industrial, CNH più 2,60, come Exor, la controllante del gruppo Fiat, Unicredit più 1,70, Banca Generali più 1,60, Intesa più 1,5, Banco BPM più 1,3, Banca Mediolanum più 1% come stima Microelectronics. Male va soprattutto Brembo oggi, dopo un report negativo, meno 4,30%, Telecom Italia dopo 4 giorni di rialzo perde l'1,30%, indice complessivo in rialzo dell'1,1%, mentre Parigi fa più 0,20%, Francoforte più 0,15%, Londra fa ovviamente più 0,07, essendo Londra, e Dow Jones più 0,80%. Dicevo, pensioni, ma anche il ritorno in borsa del Monte dei Paschi e alcune novità sul fronte, da un lato la legge finanziaria o legge di bilancio, come si chiama adesso, in particolare le bollette a 28 giorni, perché il ministro Calenda ha detto che vuole inserire, c'è già inserito un emendamento proprio per vietare a tutti i settori soggetti da autorità indipendenti di emettere fatture a 28 giorni, in modo da fermare non solo chi già lo fa, come le telecomunicazioni o le pay TV, ma anche per evitare che altri vengano tentati dall'idea. Praticamente si guadagna un mese sostanzialmente in bolletta, perché i 2-3 giorni mancanti moltiplicati per 12 fanno circa un mese in più che tu paghi, anche se tu pensi di pagare mensilmente 100 euro, e che a te farebbe il conto, verrebbero 1200 euro in un anno, diventano invece 1300, con un vantaggio molto forte. Tra l'altro l'emendamento è a firma Esposito Marcucci, con i due membri del PD, per vietare a tutti i soggetti le fatture a 28 giorni. E tra l'altro è arrivata anche una nota, o meglio fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, dicono che la tariffazione a 28 giorni rappresenta una pratica commerciale scorretta che verrà esplicitamente vietata attraverso appositi strumenti legislativi, e il ministro Calenda ha confermato che la norma andrà in manovra, quindi sarà dentro il pacchetto della legge di bilancio, e vieterà il comportamento, non potrà essere però retroattiva, quindi è, come si dice in gergo, pro futuro. E poi, se ce la facciamo, chiudiamo anche sul settore immobiliare in effervescenza. Oggi l'apertura del Sole 24 Ore è proprio sui piani individuali di risparmio, i PIR, che potranno, che si aprono alle società del mattone, finora escluse dalla normativa. È un potenziamento dei PIR con l'inclusione anche delle società dell'immobiliare. Questo potrebbe permettere alle società quotate immobiliari di beneficiare di significativi flussi di cassa. Tra l'altro i PIR a inizio anno, i piani individuali di risparmio, sono arrivati a toccare i 5 miliardi e 300 milioni nella prima metà dell'anno, e per le previsioni del Ministero dell'Economia e Finanze per l'anno in corso individuano in 10 miliardi quanto appunto verrà raccolto attraverso i piani individuali di risparmio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, nonché la diretta del programma su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Ancora dibattito oggi, andiamo subito all'Italia, perché oggi le notizie riguardano soprattutto il nostro paese. Dicevo, continua, come era immaginabile, anche continuano le dichiarazioni dopo l'esito del voto del referendum sia in Veneto che in Lombardia. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che oggi era a Marghera, ha detto: guardo con interesse, rispetto, disponibilità alla discussione aperta del referendum sul tema dell'autonomia, sono disposto a fare dei passi in avanti. Il governo ha aperto un confronto per alcune funzioni possono essere rese più efficienti da un maggior ruolo autonomo delle regioni, di questo è possibile discuterne. Io guardo davvero con interesse, con rispetto, con disponibilità a questa discussione che si è aperta in seguito anche ai referendum sul tema dell'autonomia, della possibilità su alcune materie di fare dei passi in avanti sul terreno delle autonomie, su alcune funzioni da parte delle regioni. Il governo è pronto a un confronto di merito su queste questioni. Alcune funzioni possono essere rese più efficienti da un maggior ruolo autonomo delle regioni? È possibile, anzi è probabile, e discuterne è utile per il Paese. Vedremo quali funzioni, vedremo a quali condizioni. Chiunque conosca l'amministrazione pubblica sa che sarà una discussione complessa, ma siamo pronti a fare questa discussione, ovviamente nei limiti fissati dalle nostre leggi e dalla nostra Costituzione. Deve essere molto chiaro che quello di cui si discute è l'efficienza del nostro sistema, si discute di come far funzionare meglio l'Italia. Non si discute dell'Italia, tantomeno della sua Costituzione, almeno in questo confronto. Ma il confronto è utile e il governo avrà la massima apertura. Il governatore, presidente del Veneto Luca Zaia, ha detto, leggo in positivo le parole del presidente del Consiglio, non mancheremo di fare la nostra proposta nell'alveo della Costituzione, che parla non solo di competenze e di federalismo fiscale, ma anche delle modalità della trattativa. Sappiamo che oggi c'è stata una diversità di vedute tra Zaia e Maroni, nel senso che Maroni non è d'accordo con l'ipotesi avanzata da governatore del Veneto di chiedere un'autonomia per la regione Veneto. Tra l'altro Gentiloni poi si è spostato nella sede delle generali di Mogliano Veneto e è tornato a parlare del tema del lavoro, e quindi come elemento che manca ancora per, alla luce di una ripresa che, ha detto De Gentiloni, ha preso un ritmo importante. Al centro di questa ripresa c'è come sempre l'interrogativo se la ripresa riuscirà ad essere una ripresa con lavoro. È una delle cose che ha fatto più piacere in questi ultimi giorni è stato leggere sul Financial Times un articolo alcuni giorni fa che diceva sì, in effetti la ripresa italiana non è jobless, non è senza lavoro, ha prodotto anche molto lavoro. Guardate che questa sarà la sfida per tutte le società industriali avanzate nei prossimi anni. In che modo la ripresa, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo che abbiamo davanti non distrugge ma crea posti di lavoro. È difficile? È possibile. E di nuovo, quale luogo più di una raffineria a Marghera ci può raccontare il fatto che il muro tra il vecchio e il nuovo lavoro non è un muro invalicabile? Perché si può nello stesso sito, con la stessa funzione, approfittando dell'innovazione tecnologica, transitare da un lavoro di un'altra fase dell'industria a un lavoro della prossima fase dell'industria. È questo che dobbiamo fare insieme. Dunque, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema delle bollette a 28 giorni. La maggior parte degli ascoltatori chiedono, va bene, facciamo anche gli stipendi a 28 giorni, ma chiaramente non è questa la soluzione. Invece, per quello che riguarda Veneto e Lombardia, sì, il sottosegretario agli affari regionali Bressa ha detto che inizieranno a chiudere con l'Emilia-Romagna, ma perché ha fatto notare l'Emilia-Romagna ha già una legge che chiede appunto maggiore autonomia, quindi adesso dice il Veneto e la Lombardia ancora non ce l'hanno, facciano una legge e poi cercheremo di chiudere anche con loro. Ma in maniera anche un po' polemica, Bressa ha fatto notare che l'Emilia Romagna, che non ha fatto il referendum, ha già una legge su questo. Allora, botta e risposta sulla vicenda banche tra il sottosegretario Boschi, Mariana Boschi, e il leader del 5 Stelle, candidato premier del 5 Stelle, Di Maio. Allora, perché la Boschi oggi ha scritto su Facebook: io non avevo e non ho nessuna banca, mio padre è stato mandato a casa come tutti. Noi come governo abbiamo salvato i correntisti, ora basta con le bugie, sono pronta a un dibattito televisivo con l'onorevole Di Maio sulla questione bancaria e più in generale sulle misure che noi abbiamo preso per salvare l'Italia dalla crisi, mentre il Movimento 5 Stelle rincorreva le scie chimiche e la lotta ai vaccini. Entriamo nel merito e vediamo chi sta mentendo gli italiani. Risposta di Di Maio. Non ho alcun problema a partecipare a un confronto con Mariana Boschi dopo il 5 novembre, perché adesso sono impegnato in Sicilia a mandare a casa gli impresentabili di Musumeci e di Micali. Il confronto sia magari l'americano in una piazza davanti a Banca Etruria con i risparmiatori, così avrà modo di dire anche la loro verità. Risponde al vicepresidente della Camera e appunto candidato premier del 5 Stelle Luigi Di Maio, di nuovo la Boschi con un tweet. dice: caro Di Maio, perché hai paura di affrontarmi davanti a qualche milione di italiani? Porta a porta su Rai 1 ci aspetta, hashtag dacci la data. Allora, uno potrebbe anche dire: ma perché non vi telefonate? Nel senso che uno è vicepresidente della Camera, De Bosch è sottosegretario. Detto questo, che sia porta a porta, bocca al lupo a Vespa, insomma, che sia un altro programma di altre reti, non interessa. Onestamente, se si vuole fare capire qualcosa, può andare dovunque, non ho una preferenza personalmente. Farlo in piazza con i risparmiatori davanti alla sede di Etruria vuol dire fare un circo, non vuol dire far capire qualcosa, ok? Quindi se uno giustamente vuole un confronto uno contro uno, mediato da un giornalista, lo faccia in un luogo in cui si può anche capire. Non né propendo per le tesi di Maio che non conosco, né per quelle della Boschi, dico semplicemente che i confronti si fanno anche in maniera seria. Allora la buttad davanti alla sede di Banca Etruria con i risparmiatori che magari che fanno, tirano carote e pomodori, cioè quella è un confronto serio, non si capirebbe nulla. Andiamo ancora a due notizie in breve. C'è Unicredit che ha diffuso, ho dimenticato di darlo. No, non ho difeso la Boschi, vedo subito che c'è qualcuno che... non ho difeso la Boschi, ho detto solo, e non mi sembra proprio di aver difeso la Boschi in questi mesi e anni quando parlavamo degli scandali bancari. Ho detto solo che se bisogna essere un... se ci deve essere un confronto, voglio dire che sia un confronto serio in cui uno parla, espone le sue idee, cosa avrebbe fatto lui, la Boschi espone le sue e si riesce a capire. In piazza, davanti alla sede di Banca Etruria, con i risparmiatori sotto a urlare, a gridare, a fischiare, mi sembra non si capirebbe niente. È un bellissimo show, ma non c'entra nulla con un dibattito serio. Sei paludato e inutile come il tuo programma. Vabbè, non so se sono più paludato o più inutile, schierato, sempre schierato. Guardate, abbiamo raccontato tutti gli errori fatti dal governo nel novembre 2015, governo Renzi, quando si rese conto all'improvviso di cosa avrebbe significato bail-in, lo hanno raccontato i nostri ospiti, criticando il fatto che poi il governo dice che la Banca d'Italia non li ha messi in guardia, insomma che il bail-in sia arrivato da noi e siccome scattava dal 1 gennaio 2016, nessuno si è reso conto che con il fallimento delle quattro banche, non c'era solo Etruria, si sarebbe applicata per la prima volta, avremmo fatto la cavie, diciamo, al di là di Cipro, ma del bail-in vero e proprio a livello europeo. E anche il governo non l'ha capito, è corso ai ripari male, perché poi ha salvato i correntisti, ma a quel punto gli obbligazionisti no. E questo l'abbiamo detto, stradetto e ridetto sulla così l'improvvisazione con cui si è arrivati a un bail-in che stava per entrare in vigore. Allo stesso modo, io non ho capito però le proposte degli altri su questo, perché se mi dite che cosa propone il 5 Stelle sulla vicenda bancaria, non ho capito se gli va bene l'attuale governatore della Banca d'Italia oppure no, non ho capito cosa avremmo dovuto fare, rigettare il bail-in, probabilmente non andava firmato, ma attenzione, lì bisogna puntare i pugni in Europa, insomma questo voglio capire, nel contenuto, poi schierato, non schierato, me ne frega niente. I giornalisti in TV usano due pesi e misure con i 5 Stelle, ma non è un programma di politica questo, ma allora faccio notare una cosa, a me non me frega nulla, uno può pensare a quei dei giornalisti come vuole, se un altro partito in questi anni si fosse messo a distribuire banconote dicendo che siamo dei venduti tutti, prezzolati, schiavi del regime, sarebbe stato massacrato, se l'avesse fatto sia il PD che Forza Italia. A me sembra che la reazione nei confronti dei 5 Stelle da parte della categoria dei giornalisti sia stata assolutamente, diciamo, anche sotto altre reazioni degli anni passati. Ma vorrei andare avanti con i dati di Unicredit, che ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto balzato da 1,7 a 4,67 miliardi. (Sussurra) 349 238 6666 per sms e WhatsApp. Andiamo col primo tema, le pensioni, e quindi l'aggiornamento dell'aspettativa di vita da cui, su cui dipende poi l'età della pensione, si è allungata di 5 mesi rispetto al 2013, quindi sulla base delle regole attuali l'età per la pensione di vecchiaio dovrebbe arrivare a 67 anni nel 2019, mentre adesso è a 66 anni e 7 mesi. Allora, vedo che molti si appassionano al dibattito Boschi Di Maio, scrive, l'importante è non farlo a Radio 24. Va bene, non lo faremo a Radio 24, ho mai detto che dobbiamo fare a Radio 24. In televisione forse viene anche meglio un confronto del genere, non lo so, non mi interessa dove. Non mi interessa dove si faccia il confronto e ascoltiamo che cosa hanno da dire Boschi e Di Maio, che cosa vogliono dire Boschi e Di Maio. Allora, dicevo dell'allungamento dell'età pensionabile come effetto dell'aspettativa di vita. È da quasi un decennio che in Italia l'età pensionabile è in linea di principio collegata, praticamente in automatico, all'aspettativa di vita. La regola fu stabilita per la prima volta nella manovra estiva del 2009, poi ci fu il Salve Italia di Monti, Fornero. E insomma, la sostanza non cambia, l'uscita dal lavoro va di pari passo con l'allungamento dell'aspettativa di vita. L'aggiornamento è previsto ogni 3 anni e dal 2019 ogni 2 anni. Allora, su questo è intervenuta anche la CGIL, ma non solo, non tutti i lavori sono uguali, ha detto anzi una nota unitaria di CGIL, CISL e UIL, il governo mantenga fede agli impegni assunti. De Vincenti, il ministro per la coesione territoriale del Mezzogiorno, ha detto fino al 1 gennaio 2019 non cambia niente. Valuteremo se ci sono miglioramenti da fare alle regole del sistema. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera Davide. Buonasera Sebastiano. Allora, perché diciamo, da un lato i sindacati dicono stop all'aumento automatico dell'età e lo stesso Claudio De Vincenti, il ministro, dice valuteremo, per adesso non cambia nulla fino al 1 gennaio 2019, cioè perché anche il governo stesso sta pensando di rimettere mano allo strumento. Ti chiedo solo 2 minuti di pazienza, al meteo e la pubblicità, la risposta dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. La natura di prima mano vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti. Dunque, Davide Colombo, ti giro la domanda in un altro modo, visto che la pongono anche gli ascoltatori al 349-238-6666. Ma quando l'aspettativa di vita dovesse salire a 100 anni, ce l'auguriamo tutti, io andrò in pensione a 80? No, nel senso che... allora, è chiaro che è un paradosso, ma perché lo stesso governo, tramite il ministro De Vincenti, dice adesso non cambia nulla fino al gennaio 2019, valuteremo se ci sono delle correzioni da fare? Dunque, ti do 2 risposte. Intanto lo scenario a lungo periodo fino al 2060 prevede che l'aspettativa di vita non potrà aumentare per più di 3 anni e 2 mesi, quindi rassicuriamoci che nel peggiore dei mondi si andrebbe in pensione a 70 anni, quando la longevità degli italiani, dei lavoratori italiani del 2060 avrebbe raggiunto le stime che abbiamo oggi. La seconda risposta, per quello che dice l'esponente del governo di città, il ministro De Vincenti, la risposta più corretta secondo me è perché siamo a pochi mesi dal voto, nel senso che stiamo parlando di un meccanismo che è un adeguamento automatico che abbiamo già utilizzato in passato 2 volte. I sistemi previdenziali europei che prevedono strumenti come questo, cioè degli stabilizzatori della spesa automatici legati alla speranza di vita, diciamo, dei lavoratori, sono diversi, non solamente quelli che hanno un modello contributivo come il nostro. Noi siamo il paese che ha il sistema contributivo, tra i 5 paesi europei che hanno un sistema contributivo, l'Italia è il paese più grande e più indebitato, e quindi tenere sotto controllo la spesa previdenziale non è una, come dire, una priorità, un dettaglio, ma direi una priorità. Che cosa è successo? Oggi l'Istat conferma quello che il presidente dell'Istat aveva anticipato diversi mesi fa in Parlamento. Abbiamo avuto un aumento della speranza di vita per i 65 anni, che passa da 20 anni e 3 mesi del 2013 a 20 anni e 7 mesi del 2016. Quindi la media, non è sia la media mobile sia la media. Questo vuol dire che a 65 anni tu hai 20 anni e 7 mesi di vita, di speranza di vita. Immagino che molti ascoltatori in questo momento guidino con una mano sola, però dobbiamo parlarne. Questi sono i dati, insomma, e diciamo che si tratta di 5 mesi in più, un aumento del 2%, quindi della speranza di vita del 65enne, e questo aumento della sua speranza di vita sposta evidentemente i requisiti di pensionamento sia di vecchiaia che di pensionamento anticipato. Contemporaneamente, oltre a questo adeguamento, ci sarà un adeguamento dei coefficienti di trasformazione, cioè della formula che calcola la trasformazione del monte, diciamo, contributivo, cioè di quello che abbiamo accumulato sul nostro conto nazionale, in prestazione previdenziale, cioè in pensione. Ecco, in questo caso si scende col coefficiente di trasformazione di 2 punti percentuali, con il risultato che chi va in pensione 5 mesi dopo, se in quei 5 mesi ha effettivamente proseguito a lavorare, avrà una pensione un pochino più pesante, e in questo modo si risponde al criterio di adeguatezza delle pensioni per chi lavora più a lungo, come prevede appunto l'articolo 38 della Costituzione. Sì, non capisco perché mi scrivono ascoltatori, quindi si lavora per 50 anni per goderne 20 di pensione. No, un attimo, anche tu inizi a lavorare a 15 anni di solito. Però detto questo, il tema c'è sullo sfondo, ossia va bene l'adeguamento automatico, va bene, insomma, è un meccanismo un po' grezzo, ma tant'è, e rispondere al bisogno, dire se aumenta l'età, l'aspettativa di vita, aumentano anche i mesi o gli anni in cui tu sarai in pensione e io ti dovrò fornire il welfare sulla parte pensionistica. Però a un certo momento hanno ragione anche gli ascoltatori, che un tetto lo devi mettere, nel senso che non è che andiamo avanti di ogni 2 anni adesso si rinnoverà e porti l'età della pensione, non so, a 70, a 71 o no, cioè non è che possa continuare. Oppure uno mi dice, ma guarda, il progresso scientifico medico, boh, a me non sembra, ma insomma è così forte che fra pochi anni il 78enne sarà, o il 74enne sarà come un 64enne adesso, insomma. No, ma infatti è un tema, come dici tu, naturalmente più si va avanti e più si entra in, come dire, territori a noi non noti, nel senso che stiamo parlando di, come dire, di parametri che peraltro vengono utilizzati non solamente per calcolare i requisiti di per la pensione pubblica, pensiamo nel mondo assicurativo, le tavole di mortalità Istat vengono utilizzate normalmente, certo, per calcolare i premi sul rischio vita dei risparmiatori che scelgono quegli strumenti di risparmio o di protezione, diciamo. Quindi sono parametri che vengono utilizzati, certamente oltre certe soglie di età. E poi diventa una questione da affrontare dal punto di vista della regulation. Per esempio, gli svedesi, che hanno un sistema contributivo come il nostro, un modello esattamente, tra l'altro, adottato nello stesso anno, nel 95, hanno a lungo dibattuto sulla possibilità di distinguere sull'aspettativa di vita tra uomo e donna, oppure sulla possibilità di distinguere tra categorie di lavoratori che hanno, diciamo, mansioni molto differenziate. Alla fine hanno deciso di non toccare il coefficiente valido per tutti i residenti, perché le complicazioni che si sarebbero introdotte erano maggiori dei risultati a cui si puntava politicamente. È una questione piuttosto delicata, soprattutto quando si raggiungono appunto dei parametri molto avanzati. Vedremo quando ci arriviamo. Per ora siamo a 67 anni con il requisito di vecchiaia. Teniamo conto che una serie di deroghe, la possibilità dell'anticipo pensionistico con 42 anni di contributi, continuano a dirci, i dati di flusso dei nuovi pensionamenti, che nella media stiamo avendo come dire, flussi in uscita di lavoratori che continuano a pensionarsi tra i 61 e i 61 anni e mezzo, in alcuni casi i 62. Quindi diciamo che i parametri, i requisiti di legge sono una cosa, i flussi di pensionamento, sono un'altra. Fai bene a ricordarlo, così come ci sono appunto differenze da lavoro a lavoro. E qualcuno mi chiede, ma perché invece non smettiamo di pagare le baby pensioni? Guardate, io dico con una battuta, ne riparliamo dopo marzo-aprile, cioè come Davide Colombo ha ricordato in apertura, c'è un tema di campagna anche elettorale, De Vincenti lascia la porta aperta, nessuno andrà a fare una misura, qualunque evento sulle pensioni sotto campagna elettorale, ve lo dico già. Tranquillamente mi gioco, facciamo una scommessa su questo, poi magari mi sbaglio e la perdo. Grazie intanto Davide Colombo. Traffico, poi la borsa e poi Monte dei Paschi di Siena, dovremmo un po' correre, che risbarca in borsa, le bollette a 28 giorni e i peer sul settore immobiliare. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Minuti. Dunque, la borsa di Milano, la borsa italiana, oggi è stata la migliore tra le varie borse europee. Parigi più 0,15, Francoforte invariata, Madrid più 0,44, Dow Jones più 0,80, Londra più 0 niente perché è invariata, e invece Milano più 1,12%, con dei casi specifici. Saipem, quello più evidente, più 10,80%. FinecoBank più 6%, Fiat Chrysler più 5%, Luxottic più 4,90%, Italgas già ieri se l'ha mossa bene sui conti, più 4,20%, segnalo che Unicredit, anch'essa con i conti, guadagna il 2%. Sono tutte società che hanno diffuso la trimestrale, quindi si fa il calcolo sui primi 9 mesi dell'anno. E poi arriviamo a Monte dei Paschi, lo dico che mi sta scrivendo Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Saipem, Luxottica, Fiat. Sì, un esordio di trimestrali particolarmente positivo anche nelle reazioni di borsa, ma innanzitutto nei conti. Saipem ha dato dei conti non brillantissimi, ma sicuramente con un risultato netto, con una perdita in diminuzione intorno ai 57 milioni e soprattutto togliendo le voci non ricorrenti, con un risultato positivo intorno ai 150 milioni, che è inferiore a quello di un anno fa, ma è piaciuto soprattutto l'indicazione sul debito a fine anno, che sarà inferiore a quello previsto, cioè intorno a 1,3 miliardi. Permangono i dubbi sugli ordini 2018, ma questo era il titolo peggiore del FTSE MIB, dall'inizio dell'anno ha perso il 30%, oggi la borsa le ha fatto fare una reazione violenta con cui ha guadagnato l'11%. Conti non brillantissimi, ma comunque indicazioni che fanno ben sperare e fanno confermare l'outlook, quindi le indicazioni, il risultato complessivo del 2017 per Luxottica, con un incremento dei ricavi intorno all'1,5%, mentre Fiat, mentre è in corso la presentazione dei conti da parte dell'amministratore delegato Marchione, ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto superiore ai 900 milioni di euro, un balzo del 50% rispetto a un anno fa. Ecco, una cosa non ho capito per Andrea, perché Luxottica ha visto un buon fatturato e ha confermato le previsioni. Fiat Chrysler più 50% l'utile netto, adjusted è più 25%. Ecco, Saipem ha ridotto la perdita a 57 milioni, ma i ricavi hanno fatto meno 13% quasi. Sì, sicuramente ripeto, il risultato non è stato brillante in sé e non ha particolarmente acceso la fiducia per gli analisti per quello che riguarda il 2018 e soprattutto gli ordini, che è la cosa più attesa. Sicuramente c'è stato però qualche elemento come quello del debito che è stato ben accolto dagli operatori, e questo ha portato a una reazione probabilmente esagerata rispetto a quelle che sono i numeri indicati, tant'è che poi i commenti sono diciamo non così euforici, anche se si evidenzia per esempio che nel terzo trimestre gli ordini di commesse sono state superiori, intorno ai 2,6 miliardi, quindi buone indicazioni da questo fronte. Certamente sul fronte dei ricavi ancora bisogna lavorare per recuperare. Allora, le banche, sì, abbastanza bene, pesa in senso positivo Unicredit, Banca Generali più 2%, c'è un consiglio di amministrazione anche oggi, CNA che indazza più 2,5%, XOL più 2,80%, UbiBanca più 3%, Banco BPM più 1,40%, Banca Mediolanum più 1,60%, Estima Microelectronics più 1,20%, come Intesa San Paolo l'1% lo guadagna Mediobanca e Moncler. E invece andiamo al titolo che più ha perso: Telecom ha ceduto lo 0,90, Snam lo 0,50, Prismian meno 0,50 come Enel e Biperbanca, Brembo meno 4,11%. Portato male fin da subito, perché è uscita una raccomandazione negativa degli analisti di Kepler Cheuvreux, soprattutto che in vista della trimestrale indicano che probabilmente i conti di Brembo potrebbero essere penalizzati dal peggior tasso di cambio sul dollaro, vista l'esposizione del gruppo negli Stati Uniti, e potrebbe anche essere penalizzato da un andamento del mercato dell'auto nordamericano nel terzo trimestre debole, soprattutto per quanto riguarda la produzione, e quindi ci si aspetta, diciamo, che la trimestrale possa essere influenzata da questi due fattori. Per questo il titolo ha iniziato a perdere in maniera significativa già da oggi. Allora, su questo, sulla borsa, scusatemi, vorrei farvi ascoltare l'intervista che ha realizzato Livia Zancaner a Anna Lambiase, che è l'amministratore delegato di Airtop, è una società di consulenza per le quotazioni sull'AIM, perché l'ultima bozza della legge di bilancio prevede uno sconto per le piccole e medie aziende che vogliono quotarsi sull'AIM Italia, è il mercato delle piccole e medie imprese. È importante perché un credito d'imposta sul 50% dei costi di consulenza e collocamento, che delle volte non sono pochi, soprattutto quando tu sei una piccola e media impresa. Quindi è uno sconto del 50%, un credito d'imposta del 50% sui costi di consulenza e di collocamento. È importante anche perché, visto il problema di credito bancario, molte volte abbiamo detto: attenzione, ci sono canali non alternativi ma canali paralleli, tra cui quello dello sbarco in borsa sull'AIM. Si tratta di un credito d'imposta concesso alle imprese che si quotano sul 50% dei costi sostenuti per la quotazione, quindi si tratta di costi di consulenza e costi di collocamento. In termini di cifre, avete fatto un'ipotesi o si possono fare degli esempi? In genere le società che si quotano spendono una percentuale rispetto al valore collocato, che è intorno al 7-9%, quindi possiamo dire che questo risparmio importante potrà portare un impatto molto significativo sulle possibili quotazioni in borsa. E questa novità potrà essere quindi un incentivo per le piccole e medie imprese che vogliono affacciarsi al mercato? Assolutamente sì, potrà essere un incentivo importante. Questo potrà portare sicuramente un impatto significativo, anche perché si posiziona all'interno di un percorso di PIR, quindi si posiziona all'interno di un percorso di grande liquidità. Sì, anche di PIR parleremo anche dopo per la parte immobiliare, o dopo o domani, vediamo se ce la facciamo. I temi oggi sono molti. Ne ringraziare Andrea Fontana, do i migliori e peggiori: SafeBank più 15,60, Saipem appunto più 10,80, Industria e Innovazione più 7,5, Fineco Bank abbiamo detto, Airbus più 5,90, Fronte Opposto, Notorious Picture meno 11, Elica meno 6, Expert System meno 5,30, Philips meno 4,50%. Vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666 di lavoratori precari che hanno precoci, scusatemi, che hanno iniziato a lavorare a 15 anni, a 16 anni, magari studiando la sera, e hanno già maturato 37-38 anni di contribuzione. Attenzione, un conto è la parte ufficiale, un conto è poi la realtà dei fatti, ma torneremo a parlarne, anche se dubito che qualcosa possa cambiare da qua, ripeto, ad aprile. GR24. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments, il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al Monte dei Paschi restiamo in tema di borsa, anche se il debutto sarà domani. Insomma, il titolo era sospeso dallo scorso 22 dicembre, ultimo scambio a 15,08 euro per azione. Le nuove azioni debuttano ad un prezzo di 4,28 euro. Il tesoro le ha pagate 6,50 euro, gli obbligazionisti 8,65 euro. A questi prezzi la quota sottoscritta dal MEF, quindi da tutti noi, dal Ministero dell'Economia e Finanze, con 3,85 miliardi di euro di soldi pubblici vale 2,84 miliardi, quindi c'è una minusvalenza di un miliardo, ma che è destinata a lievitare nel caso di adesione totalitaria all'offerta di scambio rivolta ai piccoli risparmiatori che sono diventati azionisti nell'ambito del burden sharing. E già questo è un primo aspetto che vorrei chiarire. Tra l'altro c'è un altro filone di inchiesta a Milano a carico di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, i due ex rispettivamente presidente Profumo e Fabrizio Viola, amministratore delegato del Monte dei Paschi, che li vede indagati per ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza in qualità appunto di ex presidente ed ex amministratore delegato del Monte dei Paschi, oltre a quello che è già in fase di udienza preliminare e per il quale sono imputati per falso in bilancio e aggiotaggio. Questo risulta dai prospetti di bilancio pubblicati dal Monte dei Paschi di Siena. L'inchiesta però è già stata chiusa dai PM milanesi e Profumo e Viola si sono già fatti interrogare. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Partiamo dal conto per noi, nel senso che, per come la capisco io, tu hai una perdita teorica di un miliardo, perché il titolo poi portato in borsa potrebbe anche crescere, l'abbiamo visto accadere in altre situazioni. Ma cosa vuol dire che aumenta ulteriormente la perdita per il tesoro, quindi per i soldi pubblici, a 1,8 miliardi in caso di adesione totalitaria all'offerta di scambio rivolta ai piccoli risparmiatori che sono diventati azionisti appunto nell'ambito del burden sharing? Sì, dunque la questione centrale è il prezzo che domani il Monte farà in borsa, per cui è evidente che tanto più sarà alto, tanto meno ci perderanno tutti i soggetti coinvolti. Lo Stato, come ricordavate giustamente, ha pagato le nuove azioni a sconto rispetto al prezzo d'ingresso degli obbligazionisti, li ha pagate 6,49. Se, come sembra, stando ai conti degli analisti che si basano, diciamo, sui fondamentali della banca, quindi valutano il Monte come le altre banche simili, ebbene il Monte ritengono che domani possa fare un prezzo compreso tra i 4 e i 4,5 euro. Anche la banca ha contabilizzato le azioni proprie a 4,3 euro, quindi di fatto il valore di riferimento può essere quello. In quel caso lì si configura una perdita che per lo Stato, come dicevi inizialmente, di un miliardo, puntualizziamo, una perdita teorica, perché la perdita si materializza quando vendi, infatti. E lo Stato non deve vendere, perlomeno non deve vendere a breve. Quindi se effettivamente il prezzo fosse, diciamo, di 4,3 euro, lo Stato ci perde teoricamente 1,2 miliardi sulla quota di aumento di capitale. Però in più il 30 ottobre inizia il periodo in cui lo Stato offrirà dei bond senior a tutti quelli che si sono trovati azionisti, i risparmiatori, piccoli risparmiatori, non i fondi istituzionali, che si sono trovati azionisti in virtù del burden sharing, cioè della conversione dei subordinati che avevano, dei bond subordinati. A quel punto è evidente che la quota dello Stato dal 53 attuale sale al 68 e quindi aumenta la perdita, perché l'investimento sale a 3,5 miliardi e quindi la perdita potenziale supera i 2 miliardi. Questo tu hai fatto bene a notare una cosa: uno, che tu la perdita non ce l'hai finché non vendi, il che non vuol dire, io non lo so se poi il titolo, al di là di quello che sarà il prezzo di mercato domani, nei prossimi mesi, nei prossimi periodi, anni, crescerà e ridurrà la perdita teorica. In questo momento, a quel livello di prezzo, teoricamente, se il tesoro andasse a vendere, porterebbe a casa una perdita di 1 miliardo, che poi può lievitare fino a 1 miliardo e 800 milioni. Tra l'altro, si è arrivati, visto che è stato un processo molto molto lungo e tutto in salita, possiamo ricordare, Marco, come si è arrivati allo sbarco, al tornare in borsa, più che uno sbarco, del Monte dei Paschi di Siena? Sì, di fatto il Monte era fuori dalla borsa da dicembre, dal 22 dicembre, quando era fallito il piano di mercato, quindi, certo, l'aumento di capitale da 5 miliardi. A quel punto la Consob aveva ritenuto che la situazione fosse troppo incerta per consentire al titolo del Monte, peraltro molto volatile, ricorderemo un anno fa di questi tempi faceva più 10, meno 10, era, sì, veramente un otto volante continuo, ritenne opportuno togliere il titolo dalle contrattazioni. In questi mesi che cosa si è fatto? Si è contrattato faticosissimamente con la BCE e con la Commissione Europea la ricapitalizzazione a carico dello Stato e a carico degli obbligazionisti, quindi in estate sono entrati fisicamente i soldi dello Stato e quelli degli obbligazionisti. A questo punto la situazione si è abbastanza delineata da poter, appunto, fare in modo di nuovo che sia il mercato a valutare il Monte. Certo è, come dicevi tu, che siamo comunque in una fase ancora in cui la banca, diciamo, è controllata a vista, nel senso che lo Stato comunque ha una quota molto rilevante, vicina al 70%, e in più sia la BCE che la Commissione Europea hanno posto una serie di paletti molto stringenti, quindi il Monte rimane comunque ancora una banca particolare. E allora stiamo a vedere domani, appunto, il debutto. L'inchiesta Profumo e Viola, che appunto si è appreso dal Prospetto, se ho ben capito, l'altra inchiesta, la seconda. È così, il Prospetto sono più di 1000 pagine pubblicate stamattina all'alba, in cui si dà conto dei rischi legali alti, perché parliamo di più di 4 miliardi di petitum, cioè quello che la banca rischia di nuovo assolutamente, teoricamente, sì, di pagare, dovesse perdere tutte le cause. Tra questa ce n'è anche una in cui è imputata ex 231, cioè per la responsabilità amministrativa degli enti, che vede coinvolti ancora Profumo e Viola. In realtà sembrerebbe essere un nuovo filone, in questo caso il reato che si potrebbe profilare, quello di ostacolo alla vigilanza, sui vecchi derivati Santorini e Alexandria, costruiti nella gestione precedente Mussari e Vigni, per cui però Viola e Profumo hanno comunque, come dire, hanno approvato una particolare contabilizzazione a bilancio che ritengono i PM non fosse conforme alla legge. Quindi già c'è il procedimento avviato per altri due reati, ostacolo, cos'era, falso in bilancio e false comunicazioni, no, e un altro che non ricordo. Adesso si aggiunge l'ostacolo alla vigilanza. Falso in bilancio e aggiotaggio, per la precisione. Ecco, ringrazio anche Roberto Ruso, amministratore delegato di Assitec Assim. Buonasera, Ruso. Buonasera. Ecco, che attese avete voi sul Monte dei Paschi? Noi qua non facciamo mai, non diamo mai consigli ai risparmiatori se comprare, vendere o quant'altro. Ma insomma, che attese avete sullo sbarco e anche sull'andamento, diciamo, dei prossimi mesi? Ma sullo sbarco più o meno siamo allineati con la media degli analisti. Riteniamo che un prezzo congruo possa essere in apertura tra 4,5 euro e 5 euro, cioè un multiplo in termini di capitalizzazione sul patrimonio netto tangibile molto simile a quello del Banco BPM, che ci sembra, delle prime tre banche quotate, quella col multiplo più basso, quindi più assimilabile a Montepaschi per ragioni prevalentemente emotive. Se guardiamo le prime due, Intesa San Paolo ha un multiplo pari al 116% e Unicredit ha un multiplo pari al 75%, e in questo caso il termine di paragone con Montepaschi vorrebbe dire addirittura 11 euro di apertura nel caso di Intesa e 7,5 euro nel caso di Unicredit. Ma ripetiamo, è giusto assimilarla a Banco BPM. Va sottolineato che Montepaschi, che apre domani mattina, è una banca completamente diversa dalla banca che è stata sospesa lo scorso 22 dicembre. Faccio solamente due precisazioni. Sì. Non ci sono più sofferenze, e diciamo è stato il fattore discriminante per il quale è stato sempre mal valutato, o meglio è stato mal visto il titolo Montepaschi, e poi direi anche alla luce di ciò che è successo in modo anche giusto per quello che è accaduto, però oggi Montepaschi è l'unica banca in Europa che non ha sofferenze in bilancio e che ha gli incagli e crediti scaduti, ovvero le altre due categorie di crediti deteriorati, valutati a oltre il 71%, multiplo decisamente di sconto, unico forse in Europa. Questi sono due elementi che sicuramente vanno tenuti in considerazione, e quindi io mi aspetto che il titolo sicuramente parta un po' con il retaggio del vecchio Montepaschi, le cause legali, lei ha già citato due notizie che mettono ansia un po' agli investitori, però oggettivamente, come lei anche giustamente detto, il Tesoro oggi domani potrebbe capitalizzare una perdita teorica, ma una banca che non ha più sofferenze, che ha i crediti completamente, diciamo, abbondantemente svalutati, che ha un patrimonio netto tangibile di 11 miliardi di euro, che potrebbe partire da una capitalizzazione di 4 miliardi e mezzo, in uno scenario macroeconomico decisamente sì, più favorevole rispetto a quello che abbiamo lasciato a dicembre, potrebbe lasciare spazio a degli spazi, diciamo, a un apprezzamento di medio periodo, con minori fattori di rischio e di incertezza rispetto al vecchio Montepaschi. Sì, ha fatto bene a notare Ruso che appunto Montepaschi si ribatte di tutte le sofferenze, diciamo, in questo quasi anno che è passato dalla sospensione del 22 dicembre, molti mi fanno notare sì, ma l'abbiamo salvato noi, questo è innegabile, cioè da questo punto di vista la quota di 3 miliardi 850 milioni sottoscritta dal Ministero dell'Economia e Finanze ha permesso a Montepaschi di non fallire. Poi uno deve fare un ragionamento, sì, l'abbiamo salvato noi, ma tra noi ci sono anche i correntisti del Monte dei Paschi e tutti coloro i quali hanno avuto un mutuo, oltre che un prestito, in generale un prestito imprenditorio o normale cittadini, dal Monte dei Paschi stesso. Il problema non si può fare solo sulla banca in sé, ma su tutti quelli che ne verrebbero coinvolti. Comunque, staremo a vedere domani al debutto. Grazie intanto a Marco Ferrando, a Roberto Ruso, amministratore delegato di Assitec Assim. Traffico, e poi andiamo sull'emendamento presente in finanziaria che dovrebbe mettere fine a questa cosa obiettivamente abbastanza sgradevole delle bollette per alcuni gruppi di telecomunicazioni o di TV a pagamento a 28 giorni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. :23, vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 che fino hanno fatto i vecchi manager. Beh, Musseri dovrà essere processato adesso. Questa è un'altra partita, così come qualcuno mi scrive sulla vicenda di Davide Rossi. Allora, io ho visto le dichiarazioni, come le avete letto voi, del procuratore, che ha detto che è disponibile a riaprire il caso. Onestamente, diciamo, dire che quell'indagine sia stata fatta con tutti i crismi e che non ci siano zone d'ombra è, diciamo, ti conviene cambiare pusher, nel senso lì bisognava, almeno per evitare tutti questi dubbi, che l'indagine, le prove raccolte, insomma, tutto un insieme di errori che uno si chiede, ma in procura che cosa avevano in testa quel giorno in procura a Siena? Lo dico con massimo rispetto, stando a quello che sono le varie denunce. Dopodiché che riaprono l'inchiesta, secondo me è la cosa migliore, e cerchino di capire che cosa è successo, visto che la famiglia e altri elementi continuano a dire che, insomma, è da escludersi l'ipotesi del suicidio. Dei PIR parleremo domani a lungo, anche perché usciranno alcuni dati PIR intesi come gli investimenti che si possono fare sulla parte immobiliare. Oggi l'apertura del Sole 24 Ore, i piani individuali di risparmio che possono essere aperti alle società del mattone, è una bozza nel DDL di bilancio, finora escluse. Sempre nel DDL di bilancio dovrebbe porsi fine, o dovrebbe porsi un fine alla vicenda delle bollette a 28 giorni. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Al di là della battuta che mi fanno tutti gli ascoltatori, vabbè, dateci lo stipendio a 28 giorni, noi paghiamo le bollette a 28 giorni. Sappiamo che si paga quasi un mese in più all'anno in questo modo. Il ministro Calenda di nuovo oggi è intervenuto. Qual è la decisione che ha preso il governo? Se ho ben capito, lo inserisce in legge di bilancio? Beh, Calenda ha detto questo, ha detto che in manovra ci sarà certamente questa misura, che è una misura pro futuro, quindi ha voluto mettere in evidenza che non potrà intervenire sul pregresso, però per il futuro dovrebbe intervenire con un intervento legislativo per vietare appunto questa fatturazione a 28 giorni, che come hai detto tu, alla fine della fiera porta al pagamento di una mensilità in più all'anno, 13 mesi anziché 12, un aumento dell'8,6%. Il problema, diciamo, che è sorto per le telco, per le compagnie telefoniche, perché l'Agicom tempo fa aveva deliberato, a marzo per la precisione, ha deliberato che le compagnie telefoniche avrebbero dovuto fare la fatturazione mensile per tutte le loro offerte sul fisso, e che invece la fatturazione a 28 giorni sarebbe potuta continuare sul mobile. Le compagnie telefoniche invece hanno continuato e stanno continuando con la fatturazione a 28 giorni sia sul fisso sia sul mobile. Ci sono delle motivazioni che hanno portato a questa differenza, nelle quali non voglio entrare, però diciamo che questo ha portato a grandi proteste da parte dei consumatori, e adesso la politica sta intervenendo appunto con un intervento legislativo. Il ministro dello sviluppo ne ha appunto dato indicazione oggi, parlando a margine di un'audizione alla Camera, rispondendo ai giornalisti, ha detto che certamente ci sarà, ed è una risposta che arriva subito dopo, diciamo a distanza di poche ore, da una nota di Astel, che è l'associazione degli operatori telefonici, che aveva detto appunto che avevano richiesto un incontro al ministro Calenda per, diciamo, spiegare la loro disponibilità a discutere, seppure nella convinzione e diciamo considerando, partendo dalla considerazione della legittimità dell'intervento. Insomma, su questo versante le compagnie telefoniche in questo momento sono un bel po' in attrito, sia con Agicom sia con la politica, che chiaramente ha subito, diciamo, in questo momento, poco prima della legge di bilancio, insomma, nell'avvicinarsi alla sessione di bilancio, subito colto la palla al balzo e adesso con ogni probabilità interverrà su questa questione, insomma, che è una questione che va avanti. Sì, anche perché chiudo da dove siamo partiti, siamo comunque in campagna elettorale e queste sono misure, adesso non è che tutto si riverberi sulla campagna elettorale, ma sono misure anche di equità, lo dico tranquillamente. La tredicesima non è prevista quando io pago un abbonamento, eh? E tra l'altro, con massimo rispetto per il fatto che debba intervenire il governo senza che ci sia stata un'iniziativa autonoma dei soggetti inclusi, e lo voglio estendere appunto anche ad altri soggetti per evitare che altri vengano tentati delle idee, insomma non è bello, era meglio dire scusate, torniamo alla fatturazione mensile. Grazie anche a Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi e parleremo anche dei piani di investimento del risparmio nel settore immobiliare. Radio 24. Libera la voglia di fare.